X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Una marea giudiziaria travolge le istituzioni di Venezia. Tutte le volte che vediamo vicende di corruzione, l'amarezza è enorme. Un'inchiesta che colpisce al cuore la politica a tutti i livelli, da Venezia a Roma fin su al Parlamento europeo. Per chi fa politica e per chi la fa in modo serio è veramente tutte le volte un colpo e una ferita. Tra gli arrestati delle chiamate gialle ci sono nomi davvero eccellenti come l'assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso, il sindaco addirittura di Venezia Giorgio Orsoni e anche una richiesta di arresto per il senatore di Forza Italia Giancarlo Galan, ex presidente della regione Veneto. Io personalmente un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento. Tanti soldi, milioni, che il consorzio Venezia Nuova distribuiva a piene mani per garantirsi negli anni la continuità dei finanziamenti pubblici e di fatto l'impunità. Non possiamo tutte le volte che c'è una vicenda di corruzione dire che il problema sono le regole. Il problema sono i ladri, non le regole. Il problema delle tangenti non sta nelle regole, sta nei ladri. Presidente Luca Zaia, buongiorno. I problemi sono più i ladri o più le regole? Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, i problemi è l'etica, la morale, le persone che non rispettano le leggi. Quindi i ladri. Che è endemico questo. Ecco, no? Perché il procuratore Carlo Nordio, che fa l'indagine, dice una cosa interessante, che la corruzione non finirà mai per via giudiziaria, ma solo per via politica. Lei è d'accordo? Sono assolutamente d'accordo e devo anche dire che i pubblici ministeri, quindi la Procura di Venezia, ha fatto un bel lavoro, nel senso che poi ha dimostrato in maniera puntuale, con un impianto accusatorio che staremo a vedere, poi se verrà confermato, ma certo. Comunque c'è molto materiale. Ecco, dice anche sempre Nordio che i magistrati non possono sostituire politici perché bisogna snellire i controlli e fare meno passaggi, meno regole che diminuirebbero la corruzione. Sembra paradossale, ma invece è vero o no secondo lei? È verissimo, perché l'esempio delle porte, se tu devi aprire 50 porte per avere un'autorizzazione, finisce che poi qualche cerniera deve essere lubrificata perché qualcuno non ti apre la porta. Meno procedure, meno sovrastrutture significa anche più qualità. Quindi alleggerire la macchina burocratica favorirebbe, diciamo, l'identificazione delle responsabilità con maggior certezza e maggior velocità. Questo dice Nordio, dice anche lei? Ma io lo confermo, le dirò di più che c'è una prova indiretta è data dai 35 provvedimenti restrittivi che non riguardano solo politici ma riguardano magistrati, rappresentanti delle forze di polizia, alti funzionari dello Stato. Questo sta a dimostrare che comunque la macchina più è burocratica è più è facile bucarla da qualche parte. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, governatore Zaia, adesso sembra però improvvisamente che tutti sapessero tutto ma nessuno parlava, perché? Ma guardi, di fatto noi abbiamo avuto una prova dai PM, cioè hanno lavorato 5 anni, penso decine o se non centinaia di persone, e da quello che si capisce, si legge nelle 800 pagine di ordinanza, si capisce che la vicenda era molto complessa, per cui al di là dei venticelli o di qualche brezza che si sentiva, la verità è che poi c'è voluta un'attività di indagine paurosa. Le ha lette tutte quelle 800 pagine lei? Io sì, io le ho lette tutte. Cosa le ha fatto più impressione? Guardi, se vuole la mia impressione, la posizione di un amministratore, cioè il sottoscritto, che non c'entra nulla, e penso che sia sancito ormai pubblicamente, che capisce che non hai più interlocutori certi, perché pazienza i politici, ma quando tu vedi i coinvolti, esponenti, alti esponenti della Guardia di Finanza, magistrati a tutti i livelli, alti funzionari dello Stato, io faccio una domanda, chiedo, ma un amministratore onesto con chi può parlare? Ecco, il suo assessore Chisso però, secondo l'accusa, aveva 250.000 euro l'anno, questo dice l'accusa. Lei non ha avuto mai sentore di questo? No, guardi, assolutamente, è bene anche chiarire un'altra cosa. Premesso che i processi si fanno naturalmente, e questo lo devo dire anche perché per coerenza, però devo anche dire una cosa, che nell'impianto accusatorio è chiara una cosa, che qui non stiamo parlando della seconda Tangentopoli, ma stiamo parlando di fatti che comunque in maniera in linea di continuità con la prima Tangentopoli comunque c'erano, cioè si parla degli anni 90, sì. Quindi chiedere a un governatore che lì da 4 anni cosa, cioè io negli anni 90 vorrei ricordare che avevo i calzoncini, insomma, andavo all'università in quegli anni lì. Cioè andava con i calzoncini all'università? Beh, sì, insomma, sì, magari quando giocavo a calcio. Non lo so. Senta, ma lei che decisione ha preso in regione rispetto a questa situazione? Ma guardi, immediatamente ho sospeso tre dirigenti coinvolti da provvedimenti restrittivi, cioè sono in carcere. E ovviamente ho ritirato le deleghe all'assessore. Senta, lei dice mi prendevano in giro perché niente cene, solo incontri in regione, questa era la mia abitudine. Ecco, ma a che cene l'hanno invitato e non è andato? No, guardi, io sono rigoroso nella pubblica amministrazione. Penso che se tu vuoi vincere un appalto devi partecipare alla gara e cercare di fare un'offerta che sia buona qualitativamente ed economicamente, punto. Non serve che andiamo a cene, non serve che facciamo incontri. Questo è un malcostume nazionale, però guardi, io non ho fatto solo direttive così magari più simboliche come quella del cena, ho fatto direttive per i dirigenti e per i miei colleghi in maniera tale che non si ricevessero tutte le persone in regione, che non ci fossero come stile di gestione del potere. Con Sebastiano ci scrive: trasparenza e digitalizzazione possono semplificare e aiutare contro la corruzione. Cosa gli risponde a Sebastiano? Guardi, io dico che ci aiuta contro la corruzione il fatto che ci sia un'etica, perché guardi, ormai abbiamo tutto digitalizzato. Posso anche dire che se andassimo a vedere molte di quelle vecchie pratiche sono impeccabili dal punto di vista formale, però poi magari dietro certo, ci sono accordi. Certo, infatti. Questa è la verità. Cioè la forma era salvata. Ecco, lei dice che i signori del MOSE, da quando c'è lei in regione, hanno trovato difficoltà. Ecco, ma che difficoltà hanno trovato? Ma guardi, io posso dire una cosa, premesso che poi staremo a vedere cosa accadrà nella fase processuale, che leggendo le 800 pagine si legge dall'inizio alla fine comunque nelle diverse dimensioni la difficoltà di un interlocutore in regione che non c'è più. Addirittura ci sono delle intercettazioni nelle quali si evince chiaramente. Io sono un po' coinvolto da queste intercettazioni proprio per questo motivo, come nell'Expo quando si dice bisogna far fuori Zaia perché c'è lì in Veneto. Questo vuol dire rigore, vuol certo. dire che se mi chiedi un appuntamento vieni in regione se devi parlare, ma certo. se devi parlarmi di una gara non serve che tu venga perché devi c'è la gara. Senta Presidente Zaia, la Lega di Salvini ha vinto in Europa, è andata bene anche il ballottaggio e in Europa cerca il rapporto con Marine Le Pen, lei è d'accordo? Ma guardi, noi abbiamo fatto un accordo che è contro questo modello di Europa e va in quella direzione. Non andrei a riesumare antisemitismo a altre partite perché, come dico sempre, il mio motto è che chi tocca un ebreo è come se toccasse ognuno di noi. Per cui se l'accordo si basa fondamentalmente sul no a questo modello d'Europa, no all'euro e a tutte le partite delle quali abbiamo quindi parlato. Le va bene l'accordo con Marine Le Pen su questa base? È stato assolutamente funzionale e noi siamo i primi a condannare ogni altra forma di razzismo, senta, antisemitismo. Prego. No, scusi, è la ripresa del dialogo con Berlusconi un fatto positivo? Ma guardi, il dialogo bisogna averlo con tutti. Poi no, vabbè, ma questo è un dialogo un po' di più. Guardi, non so dirle quanto di più, anche perché ovviamente io mi sono occupato di altre cose in questo naturalmente, periodo. Vabbè, però è il suo però partito. Le posso dire che la Lega mantiene una spina dorsale che gli italiani hanno visto tutti, che è una spina dorsale rigida, compatta e che sa dare dimostrazione della coerenza che altri non hanno avuto. Senta, lei aveva annunciato gare internazionali a proposito di gare per le ferrovie del Veneto, maltrattate secondo lei dalle ferrovie italiane. A che punto siamo con quelle gare? Guardi, siamo al punto che noi confermiamo la gara, nel senso che è una gara, è un'istruttoria non facile, visto e considerato che è una mole di carte da far paura, tanto per tornare alle dichiarazioni del dottor Nordio, ma comunque andiamo avanti per questa strada. C'è Mario Seghe che vuole fare una domanda, Presidente. Buongiorno. Prego. Presidente. Buongiorno. Allora, lei conosce Galan. Io ho letto la ricostruzione fatta dai magistrati. Qual è stata la sua reazione nel leggere quelle cose? Come lei sa benissimo, io non replico alle uscite di Galan da anni ormai, anche perché ha dispensato consigli, penso, a tutte le ore in questi ultimi anni. Dico semplicemente che se l'impianto accusatorio fosse confermato e quindi i processi si celebrano nei tribunali, la situazione risulta abbastanza inquietante. Senta, lei un'ultimissima cosa le voglio chiedere io. Lei ha fatto il ministro dell'agricoltura. Ecco, l'agricoltura è il 40% del bilancio europeo. Che cosa deve ottenere nella nuova Europa che cerca di costringere ad ascoltare l'Italia, secondo lei, il Presidente del Consiglio? Ma guardi, finanziare gli agricoltori veri, quelli che vivono di agricoltura, che danno vita ai 4.500 prodotti tipici, coloro che fanno sicurezza alimentare, che investono nell'identità, e non finanziare le aziende agricole false. Ecco, e nell'Europa di oggi che cosa lo impedisce questo? Ma guardi, l'Europa di oggi è quella degli OGM, delle multinazionali, delle lobby, è quell'Europa che ho combattuto da ministro, e penso che basterebbe citare una cosa, l'etichettatura obbligatoria piuttosto che il no agli OGM, che ho portato avanti. Buon lavoro Presidente, grazie. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS musica. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse, ed io lo so che parlerai sempre così. Dolcezza, dolcezza del lunedì, Pietrangelo. Perché nel sopravanzare del giorno si è svelata una magia, no? È una cosa che ha preso come una carezza intorno. Poi la voce di chi canta ci riporta forse negli anni 70, forse ancora più indietro, eppure avanti, perché tutto diventa pastello. E quindi ci si accorge di qualcosa che non è un mistero, bensì un segreto. Ed è come quando il sorriso si bagna di lacrime. E come si dice nella canzone, più vedo te, più ascolto te e più... ma c'è anche l'altro significato, più non vedo te, più non ascolto te e ancor di più si ama. Sempre di più. Questa è la versione, è la versione sua. È lunedì. Del lunedì. Abbiate pietà di me, è lunedì. Cosa bolle il petto? Allora Mario? È una frenata. Vabbè, è la frenata del PD, ma non lo so. È caduto il muro di Livorno, per la prima volta, non è della sinistra. Governerà il Movimento 5 Stelle. Vabbè. A Livorno forse c'era una sinistra completamente diversa. Un'archeo sinistra. Sì, non archeo. Lo so, insomma, credo che non sia interessante da questo punto di vista. Sì, no, sì. È una cosa divertente. È caduto un muro, giornalisticamente divertente, va da sé. Padova è finita la Lega. Vabbè, che succede? Renzi si è spento? No, ovviamente. Semplicemente, almeno questa è la mia visione, il PD non è al 40% in tutto il paese quando si faranno elezioni, diciamo, non europee ma politiche. Questo si vedrà. Naturalmente non è neppure al 20, come pensa qualcuno, un partito molto forte che Renzi poi ballottaggi mi sembra che si sia impegnato poco. Sì, esatto, che però mi hai anticipato, no? A una leadership carismatica, perché questa è evidente. Quindi quando Renzi non fa campagna elettorale, insomma, le cose si vedono, e le elezioni amministrative poi sono una cosa completamente diversa. Insomma, ogni voto è una storia a parte. Questo è il punto, secondo me. In che consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. È la bizzona. Il modo migliore. Beh, insomma, siamo a pochi giorni dall'inizio di questo mondiale di calcio, però già si pensa al 2022. Tu sai che è stato assegnato al Qatar, no? So che ci sono un sacco di problemi. C'è un caos infernale. Ora si parla di che cosa? Di una gara per l'assegnazione. Tanto per cambiare. Di soldi. La cosa inquietante è che a questo punto si muovono i grandi sponsor. Adidas, Sony e Visa vogliono un'indagine. Sotto accusa, va da sé, c'è la gestione Sepp Blatter, cosa anche questa vecchia. Ho sentito che Platini ha detto: se ci sono stati trucchi, rifacciamo la gara, non importa. Volevano coinvolgerlo, mi pare che si sia smarcato. Sì. A proposito di trucchi, non vorrei parlare di calcio, tu? Io di calcio? Tu non sai niente di calcio. No, so tutto di calcio. No, guarda, tu sei fermo a Pedrini e Luvanor. So tutto di calcio, sono Catania. Preparatissimo e so perfino che la Rai ha preso una toppa. Ma dai. Ma sì, ha fatto lo spot per i mondiali facendo indossare al Cristo la maglia dell'Italia, per cui l'arcidiocesi di Rio de Janeiro ha piantato una grana, una causa che va dai 5 ai 7 milioni. È una cosa. Ma però in pubblicità forse rende, ne parla tutto il mondo. A me sembra di cattivo gusto. Mi ricordo un po' come quando i comunisti in Spagna fucilavano la statua del Cristo Redentore. Ognuno ha sempre i suoi modi per farsi la pubblicità. In effetti. E quindi sto calcio? No, io volevo solo chiudere che a leggere i documenti pubblicati dal Sunday Times sulla questione del Qatar, insomma, c'è da pensare, perché dell'affare si è occupato tal Mohammed bin Amman, che fu squalificato a vita, tra l'altro, al calcio, insomma, altro che rigore, qua è una roba di lassismo totale. Beh, però vedremo. Parliamo di calcio, parliamo di quota rosa, parliamo di Sara Tardelli. Eccomi, infatti anch'io parlo di mondiali, perché ieri sera, non so se l'avete vista, ma c'è stata la partita super super super amichevole con 9 cambi dell'Italia contro il Fluminense. Tra l'altro, parentesi, 3 gol di Immobile. Sì, e 2 gol ce li siamo persi perché è saltato il collegamento col Brasile, però vabbè, insomma, era l'inizio, era una prova. Adesso però, vedendo che la partita inizia a respirare l'aria, l'attesa, il gol, insomma, è bello, sono iniziati i mondiali. Nella seconda ora, oggi, va in onda la puntata su Giovanni Trapattoni, grande, realizzata da me e curata da Marina Milone. Lui è stato il primo allenatore a migrare all'estero, dove, come raccontiamo nella puntata Trap di Italian, ha vinto più di tutti. Con la nazionale italiana, invece, il cammino è stato sofferto. E sentite cosa mi ha detto sul ruolo del CT della nazionale. Se vinci sei bravo, se arrivi secondo sei da cambiare. La stampa risente anche delle cose che ascolta a livello confidenziale dai dirigenti, dall'ambiente stesso, del calcio, e quindi poi alla fine vox populi. La natura nazionale italiana è come un condannato a morte che non sa mai qual è la data della sua esecuzione. Ma mi sembra avesse idee molto chiare il Trap. Salamino. Salamino elettorale, anzi, salamino di Sicania, perché in Sicilia non si riesce proprio a fare tutto in un giorno. Ai ballottaggi in un solo giorno, come in tutte le persone normali, è impossibile. Ancora le orge sono aperte Laura Cesaretti, mitica Laura Cesaretti del Lauretta, giornale, in un tweet si chiedeva: ma è troppo difficile? Dice, è una cosa complicata? E si è posta una domanda: perché forse i picciotti stanno a mare fino a lunedì all'ora di pranzo? La regione siciliana, seconda domanda, è stata quella di Giuseppe Falci, ci fa sapere che il costo delle 2 giorni di elezione di ballottaggi sono dovute anche a un fatto particolare, cioè che i capibastone stanno al mare, mentre i picciotti si presenziano davanti ai seggi con la busta della spesa. Certo. Ragion per cui, in questa meravigliosa terra di Sicilia, che è governata dal bene totale, nella figura luminosa, splendidissima del suo presidente Rosario Crocetto, insomma, tutti in piedi, poteva immediatamente fare votare sta bella Sicilia, invece no, più giorni, tanto la sostanza qual è? Sempre buttanissima resta. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Mario, Marcello da Roma dice, ci chiede aggiornamenti su nomina e Commissione europea. Mi sembra siamo in alto mare. È azzoppato, perché gli svedesi gli votano contro. Insomma, siamo in alto mare. Però è una grossa trattativa, non c'è niente ancora di definito. E i due referendum inglesi? E i due referendum inglesi, quello per l'Europa non è fissato, non verrà anticipato. Quello scozzese ci sarà, però i favorevoli alla secessione sono inferiori a ai previsti. Sì. Allora, bolla. Descrivi con parole semplici solo le cose belle che ti vengono in mente. Riguardo a tua madre. Mia madre? Sì. Sai che ti dico di mia madre? Questo era un pezzo famoso di Blade Runner, l'interrogatorio, il test, certo, per vedere, no, se sei intelligenza artificiale o umano. È interessante perché ho letto su Quartz, che è una newsletter molto bella, ricevo tutti i giorni, che insomma un robot ha superato il test di Turing, che è un gioco che si fa tra un umano e una macchina, e tu devi capire qual è l'umano e qual è la macchina. Qual è la macchina e chi vince? Qual è la macchina. E stavolta questo programma, che si chiama Eugene Goodman, ha convinto il 33% dei partecipanti a un evento della Royal Society di Londra, che era un ragazzino ucraino di 13 anni. E la fantascienza diventa sempre, sempre meno fanta. E allora noi andiamo nel perenne con il nostro canzoniere. Ebbe le febbri quando era in Spagna, e quando lo prendeva l'accesso notai come tremava. Sì, è vero, questo dio tremava, le labbra codarde sbiancavano, e quello stesso occhio che soggioga il mondo col suo sguardo perse il suo lustro, lo sentì gemere. Sì, e quella sua lingua che ordinò di stare attenti e trascrivere nei libri i suoi discorsi gridava: ahimè, dammi da bere, come una bimba malata. Santi lumi, mi fa strappi che di un uomo così debole che s'avanzi nel mondo maestoso e da solo porti la palma. Mix 24. Un passo dopo l'altro, capirai. Ed il mio lento canto vestirà le tue paure con la libertà. Una storia. Sono io questa volta che ho messo la canzone di una donna che è una splendida cantautrice, si chiama Chiara Civello, e oggi mi ispirava proprio il titolo, Un passo dopo l'altro. Ah, quello che stai facendo, Salamino. La civetta non sta più sul Como. E dove sta? È rimasta sulla poltrona. Barbara Spinelli, no, era la giornalista prestata alla politica e candidata civetta della lista Tsitsipras, non rinuncia al seggio europeo. Con perfidia, Luca Mastrantonio sul Corriere ha fatto un ragionamento, e cioè che è il proprio fine giustifica i mezzi altrui. Cioè dice, cerchiamo di capirlo insieme, è l'era postmoderna ed eco-machiavellica. Aggiungerei. Scusa, me lo puoi tradurre, ti prego io. Tradurre! Si è fatto i cavoli suoi! Oh. E facciamoci capire! Cavolo, stiamo parlando di Luca Mastrantonio, le pagine alate del Corriere della stiamo Sera. Stiamo parlando di Luca è un grande illustre intellettuale, una bellissima penna, ma io voglio capire. Insomma, l'ego machiavellico. Allora, se fate i fatti suoi. In un innesto moralista aggiungerei, perché durante la campagna elettorale, lo ricorderete, non poco, tutti questi maggiorenti, uomini chic e femmine pettati, si sono adirati perché Paola Bacchiddu, responsabile comunicazione della lista Tsitsipras, che cosa ha fatto? Si è svelata su Facebook in bikini. E così, mentre Sabina Guzzanti ha firmato un appello sbagliato, così lei dice, la civetta, nel senso della candidata civetta, torna sul Comò, resta a Strasburgo, e il grazioso fondoschiena di Paola Bacchiddu resta l'unico problema. Ma noi con lei diciamo... Credo io. Margherita. Buongiorno da Foggia. Buongiorno signora. Allora, ha indovinato il nostro canzoniere? Al volo, alle prime parole. Battute, sì. È una mia passione Shakespeare. Brava. Giusto. Ed è esattamente il come? Quale opera di Shakespeare? Gliel'ho detto, il Giulio Cesare. Bravissimo, Ferdinelli. È il grande monologo per convincere gli altri congiurati ad uccidere. Giusto. Ma lei fa l'insegnante, signora? Sì, però non è questo il motivo per cui... No, volevo sapere, ma adesso è a casa? Dov'è? Io lavoro il pomeriggio perché lavoro in carcere. Ah, ok. Perfetto, va bene, allora la mattina ci ascolta e siamo contenti. Sì, infatti. Ah, grazie signora, infinite. grazie mille, bolla. Abenomics has three arrows. La Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Guarda Giovanni, ti dico la verità, Mose, Expo, ballottaggi ribaltoni, bah, io mi annoio, cioè, alla fine trovo tutto questo molto meno interessante di quello che sta accadendo nel mondo, cioè, la nostra è un'italietta, mentre noi siamo attorcigliati in questo dibattito senza alcuna visione di quello che ci accade intorno, io dico sempre, occhio al Giappone, attenti all'Oriente, i dati della produzione economica nel primo trimestre sono migliori delle stime, per la prima volta in 44 anni, questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo stamattina, la bilancia commerciale del turismo giapponese è positiva, il Giappone si sta trasformando in un paese turistico, addirittura, e punta entro la fine del decennio, quindi ci siamo perché è vicina, a 20 milioni di visitatori, la ricchezza è là, non più qua, mi spiace, questa è la verità. Questa a meno è la verità. Che noi non facciamo in Oriente, ci dovremmo dar da fare. Ma professore, il canone parlava di Oriente ieri sera da qualche parte? No, abbiamo due minuti, professore, glielo dico prima. Il canone secondo me era sulle tre reti All News, Rai News, Sky TG24 e TG Com 24, soprattutto su quest'ultima, perché tutte e tre hanno seguito i ballottaggi. Sì. E mentre le generaliste erano tutt'altre faccende affaccendate tra blackout e cose varie, hanno seguito i ballottaggi, li hanno seguiti puntualmente e devo dire che mentre Sky TG24 li ha contestualizzati in un dibattito non particolarmente originale sulla corruzione, mentre Rai News l'ha contestualizzato rispetto alle prime pagine dei giornali in maniera un po' verbosa, TGCom24, di cui non parliamo mai, quindi questa volta giustamente gli rendiamo merito, l'ha fatto in maniera precisa, puntuale, è arrivato anche primo su alcune notizie abbastanza clamorose tipo quella di Pavia, quindi insomma direi che il canone era assolutamente lì, perché i ballottaggi sono una cosa seria, importante e sfuggono magari ad alcune logiche politiche che la televisione generalista privilegia, però ieri sera meritavano assolutamente la prima pagina, ecco. E quindi canone alle All News. Canone alle All News, professore, lei si prepari perché un giorno o l'altro chiederò a lei la sua opinione sul dibattito, sul canone che si deve rinnovare nel 2016. Mi dirà poi qualcosa, si prepari molto bene. Come dice Lucio Dalla, io mi sto preparando, questa è la novità, l'anno che verrà. Tu l'hai vista la televisione di sera, canone no, ce l'avete da qualche parte? No, non te lo chiedo neanche. Stavi scrivendo, canone da nessuna parte, tu Sara hai visto il canone? No, il canone non proprio, però ho visto un documentario su History Channel su Gheddafi. Si capiva che era fatto da americani, diciamo. Sì. Era un po' di parte. Ma un pochino, sì. Però History Channel mi sembra che dopo un inverno un po' sonnacchioso, almeno i titoli che sta per proporre siano belli. Poi contenuto un po' meno. Speriamo che ai titoli corrisponda il contenuto, perché il prodotto standard globalizzato di History Channel, insomma, lascia anche un po' desiderare. Sì. Illude più che sedurre, sì, tutto sommato. C'è un gran packaging. Sì, no, però packaging formidabile, però poi tutto sommato. Che è sto packaging? Il packaging è il, come si fa? È come, come dici tu, i femmini pittati. più o meno è vero. Di abilità. Mix 24. Bruno Pellegrino, intellettuale, scrittore, saggista, ex consigliere di amministrazione della RAI, ex segretario del Club Turati di Milano. Ha scritto un saggio, Il Filantropo, edito da Minerva Editore. È un saggio sulla vita di Prospero Moisè Loria, fondatore dell'Umanitaria di Milano. Ecco, dottor Pellegrino, cos'è l'Umanitaria di Milano? È la più antica istituzione del riformismo fattivo italiano. Nasce dai soldi di Loria, da un progetto di Loria, e tuttora vive, naturalmente. E vive ancora oggi. Sì, vive oggi ancora come ente morale, come fondazione, e continua negli scopi di formazione professionale. L'Umanitari di fine 800, inizio 900 era in una società senza welfare, senza stato e sociale. E quindi era un po' sostitutiva. Molto sostitutiva. Adesso invece deve misurarsi con una sovrabbondanza di offerta delle politiche sociali e soprattutto formative. Ecco, Loria, quando muore lascia al Comune di Milano 12 milioni di lire oro per fare appunto l'Umanitaria. Ma quante sono oggi 12 milioni di lire oro? Sono molti milioni di euro, 50-60 milioni di euro. Tantissimi soldi, quindi. Sono tantissimi soldi. Allora erano veramente tantissimi, perché era, diciamo, volendo trovare una misura, la metà del bilancio del Comune di Milano. Allora i comuni non avevano i bilanci di oggi. E li lascia questi soldi appunto al Comune per fare l'Umanitaria, però li lascia tutti questi soldi con dei vincoli molto stretti. Sì, vi do dei soldi, voi li investite, non li sciupate, con il reddito che ricavate fate iniziative, chiamate altri a sostenervi, no? C'era un modello. Quindi vincoli stretti, perché non si fidava tanto del Comune. Non è che non si fidasse tanto, gli aveva dato un modello, ma questo modello il Comune, che allora aveva dei bilanci molto risicati, non li adotta. Allora lui fa una sfida finale della sua vita, prende tutta la sua ingente ricchezza, dice: ah sì, allora ecco qui, questi sono tutti i miei soldi, però state attenti, perché se li volete dovete eseguire il mio progetto che io vi ho scritto, che vi ho depositato. Se lo fate, entro un anno i soldi rimangono al Comune di Milano, altrimenti vanno altrove. Quindi un bello stimolo a fare quello che diceva lui. Non potevano più arretrare, perché la somma era così importante. Sì, soprattutto ha acceso le aspettative dei poveri, dei diseredati. Quando esce questa notizia, la città praticamente ha un fermento sociale straordinario, perché dice i poveri dicono: ma questi sono soldi per noi, li vogliamo noi per fare le cose che servono a noi. E quindi l'Umanitaria in qualche modo può considerarsi importante, anche perché è all'origine di questo welfare proprio del riformismo. Sì, e in quel bacino milanese, nelle relazioni che ha Loria con alcune personalità, con Osvaldo Gnocchi Viani, è stato contemporaneamente l'esecutore testamentario di Loria, perché è quello che dopo la morte di Loria ha realizzato l'Umanitaria, ma nel 92, fra il 91 e il 92, realizza le prime camere del lavoro italiana, prima a Piacenza e poi dopo pochi giorni a Milano. La prima camera del lavoro porta proprio il nome di Osvaldo Gnocchi Viani, e contemporaneamente sono quelli che fondano il Partito Socialista. Quindi è un insieme di personalità e di progetti che matura lungo l'Ottocento italiano e che deposita all'inizio del secolo, nuovo secolo, il Novecento, il meglio di sé. Dottor Pellegrino, Loria era un israelita, commerciante, democratico, massone, ma non un politico in senso stretto. Che rapporto aveva con la politica dell'epoca? Nessuno in senso stretto, nel senso che aiutava, poteva, diciamo, i politici per le iniziative, ma allora i partiti non c'erano, certo, c'era un sentimento diffuso nel movimento dei cattolici per certe cose, nei laici per altre, soprattutto sopperivano alla mancanza di welfare. Esatto. Il welfare era un miscuglio di iniziative private fra cattolici e laici che costruivano centinaia e centinaia di iniziative per sorreggere una società che produceva profitti ma procedeva anche poveri. Problemi. Ecco, infatti, in che senso l'idea di solidarietà di Loria era alternativa al concetto di beneficenza di allora, che era molto in voga? Lui era, diciamo, contrariato da due idee: l'inefficienza del sistema del welfare così come si stava strutturando, cioè molta carità, molta beneficenza fine a se stessa, no? Cioè comunque che non produceva risultati stabili, e al tempo stesso, diciamo, gli dava fastidio la gente che allungava la mano per cercare, perché lo trovava non degno. Quindi la sua idea è di creare situazioni dal punto di vista abitativo, dal punto di vista degli studi, dal punto di vista delle opportunità di lavoro, perché la gente fosse posta nelle condizioni di rilevarsi da sé medesima. Cioè, questa era un po' la sua modernità. Questa è la sua modernità, ma la beneficenza non ha un disegno così armonico, nel senso che se tu vieni e hai bisogno di mangiare ti do il pesce. Lui era contrario a regalare il pesce, dava, per voleva usare insegnare. Una metafora, diciamo, insomma abusata, dava l'amo, dava la canna e imparava a pescare. Esatto. Sì. Lorian ha una vita avventurosa e diventa ricchissimo. Come? Lui sceglie città, diciamo, in grande fermento. Mantova, lui nasce lì. Mantova è una capitale dell'ebraismo italiano. In quegli anni c'è un rapporto fra ebrei e cattolici di 1 a 10. Va a Trieste, che è il porto dell'Austro-Ungheria ed è il ponte verso l'Oriente. Sceglie di andare in Egitto, che è sulla traiettoria dell'Europa verso le Indie. E la modernità dell'Egitto passa attraverso il sistema delle comunicazioni. Prima fanno l'Overland Route, cioè si arriva ad Alessandria d'Egitto, si attraversa il deserto, si arriva poi a Suez e lì ci sono altre navi che vanno verso l'India. Quindi lui va e che fa? E lui va lì e dopo... Che diventa ricchissimo? Diventa ricchissimo perché in questa sfida europea verso l'Oriente bisogna costruire le infrastrutture, le linee ferroviarie. Capisce che per fare le ferrovie c'è bisogno di legname, delle traversine. Lui le fa arrivare da Trieste, dove c'è il suo fratello, arrivano in Egitto e vende le traversine per fare viceré d'Egitto per fare le ferrovie. E lì diventa veramente ricco, perché per fare le ferrovie ce ne volevano molti soldi. Insomma. Ecco, in Egitto diventa ricchissimo, l'abbiamo detto, dottor Pellegrino, però Loria viene anche accusato di commercio di carne umana e di usura. È vero? C'è no, qualcosa non di viene vero? Accusato, viene detto, sospettato. Perché diciamo la ricchezza era così gigantesca che a quell'epoca, diciamo, quella era un'abitudine, una tradizione, si faceva. Ma lui, nelle carte che si sono state trovate, non c'è traccia di tutto questo. La sua fortuna è legato alla sua grande ricchezza. E quindi, come finisce la sua avventura in Egitto? Finisce che l'Egitto è stato una capitale dell'eroismo risorgimentale italiano, perché tutti gli esuli scappavano per non essere fucilati e si recavano in queste piattaforme del Mediterraneo, Alessandria d'Egitto e Cairo, dove preparavano le guerre di indipendenza. Conquistata l'unità d'Italia, lui pensa, essendo diventato molto ricco, che è tempo di tornare in Italia, e si stabilisce a Milano, dove diciamo mette a profitto i suoi investimenti attraverso operazioni immobiliari e agricole, diventa progressivamente. Sì. Arriva a Milano e trova una città ancora una volta in grande fermento, perché Mantova è così, Trieste è vivissima, Alessandria d'Egitto è una capitale internazionale e Milano è la città che cerca di conquistare il proprio futuro in quegli anni, e comincia a domandarsi come posso essere utile agli altri. Quindi c'è un miscuglio di filantropia ebraica e massonica, insomma, perché il suo carattere è un po' quello. Insomma. Ecco, ma perché un uomo così importante? Perché se dà la metà del bilancio di una città come Milano, ricco, insolito anche nella Milano del Novecento, poi viene dimenticato. L'unica cosa vera che io rimprovero a tutti è di non aver mai indagato davvero la sua vita. Cioè valeva la pena, perché è una persona così straordinaria che non può essere, diciamo, catalogato come un uomo ricco che regala cose e punto e finisce lì. È anche una storia che consente di ripristinare, diciamo, o comunque di andare in profondità rispetto alle radici del migliore riformismo italiano, che poi ancora oggi ci governa e ci condiziona. Ecco, dottor Pellegrino, un'ultima cosa: sono passati 200 anni dalla sua nascita. L'Umanitaria ha in programma un ricordo, oltre naturalmente al suo saggio? Nel 18 l'Enciclopedia Treccani ha organizzato una presentazione del libro con Giuliano Amato, Paolo Mieli e Giovanni Sabatucci alle 17:30.